Ancora esiste l'esile Betulla, cui domandai dell'azzurro del cielo, nella voce delle sue fronde bianche. Ancora frucia nello spazio aperto del mio essere, dove la aspetto, dove mi rifugio per non udirla. Più del ricordo del tuo corpo, ora mi affoga nel vuoto della stanza un rimbombo cupo di mareggiata che per lo scoglio sommerso s'agita. Mi separa dal sonno, mi è viva la sillaba eterna dell'addio, scagliata quasi l'avesse il vento nell'universo fuori che si allarga.